per cause di lavoro negli anni 60 dai paesi vicini, tutti si sono convogliati a Rovereto e Sacco fa parte di Rovereto. Prima era comune, poi è diventato Rovereto, solo comune di Rovereto dal 21. Quella casetta là era la sede del comune di Borgo Sacco. Qua abbiamo adesso la Cassa Rurale, che prima era un negozio di generi alimentari fino a 15 anni fa. Lì sopra sono abitato per 15 anni, sopra la Cassa Rurale, dopo mi ha mandato via. Terzo piano? No, no. Qua dietro alle spalle un negozio di abbigliamento da tanti anni. Era stato adesso trasformato in pettinatrici, no? Come si dice? E la gelateria, e il bar alla scaletta laggiù c'è sempre stato, che mi ricordo io. Qua a Piazza Filzi, la strada veniva da Isera, Piazza Filzi, via Bronzetti, Cola Meno, oppure via Libertà. La strada là dietro, lungo l'Adige, sarà stata fatta negli anni 80 circa, non prima. Ciao! Qua è bello da vedere. Potremmo farle accendere l'illuminazione di quel presepio che mi opere. Questo è anche una casa Fedrigotti. Però questa era per i dipendenti, diciamo, tanti, tanti. La sua era il palazzo, questa sempre casa Fedrigotti.